di questo percorso viene dal centro sociale Nestemerson, che a un certo punto ci siamo accorti che la strada a 20 metri, 30 metri dal centro sociale è intitolata a Reginaldo Giuliani, e sulle targhe c'è scritto Reginaldo Giuliani, medaglia d'oro. Quindi noi, stupidamente, si pensava che fosse medaglia d'oro, resistenza, eccetera. Invece quella medaglia d'oro gliel'ha data Mussolini. Lui era un prete domenicano, un frate domenicano, è morto in Etiopia, dove benediceva gli aerei che partivano con l'ifrite che veniva sganciata sui villaggi. Ricordo che l'Italia ha versato più di 500 tonnellate di ifrite sulla popolazione etiope e eritrea. E quindi da lì è nata anche la voglia di capire come mai una città invece medaglia d'oro della resistenza come Firenze potesse avere ancora queste macchie nel proprio tessuto, e abbiamo visto che non solo non era l'unico, ma ce ne sono molti altri, e possiamo cominciare per esempio da lui. Sì, sono più di 30, ne abbiamo censite più di 30 e in settimana si metteranno tutti questi luoghi, questi posti che sono a Firenze, sono 30, più di 30 in tutta la città. Si metteranno in questo sito macchie urbane, che è un sito da circa 6-7 mesi sul web, in cui periodicamente lo aggiorniamo. Sia per quanto riguarda la toponomastia resistente, cioè quella riguardante i partigiani o comunque soggetti a non battuto, diciamo il fascismo, il colonialismo, dicendo, sia però anche scusami, quelli, le vie, i palazzi, i monumenti, l'odonomastia in senso generale, che riguardano il fascismo e, nel caso nostra camminata, il colonialismo italiano. E il fatto che ci sia ancora tutti questi luoghi dedicati, diciamo, a Bobo, sto smanettando, dedicati appunto a soggetti che hanno fatto il colonialismo italiano, è indice di un passato coloniale italiano rimosso sostanzialmente, un passato in cui la storia viene falsificata e nel mito degli italiani brava gente si tace sui bombardamenti sulle popolazioni civili, sulle persecuzioni, sulle torture e le impiccagioni dei partigiani, in particolar modo quegli etiopi, e si tace anche su il brodo di cultura, diciamo, che sostanzialmente ha legittimato che tra l'altro ha due particolarità rispetto agli altri colonialismi, che sono tutti colonialismi di predazione sia di risorse che di esseri umani, però il colonialismo italiano c'è la particolarità che per un grande periodo è direttamente assimilabile al fascismo, nell'ultimo periodo del colonialismo italiano, e che si è sviluppato quasi esclusivamente, a parte alcune isole del Dodecaneso all'inizio in Grecia, all'inizio del Novecento, si è sviluppato in Africa. Quindi tra l'altro c'è questo rapporto di causa e effetto anche direttamente con il razzismo sostanzialmente. E si fa partire da un punto di vista storico il colonialismo italiano con l'acquisto di una baia sul Mar Rosso da parte di una società marittima genovese, le coste eritree, la baia d'Assab, a metà degli anni dell'Ottocento, e poi si dispiega per più di un secolo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e c'ha tre apici, diciamo. Il primo alla fine dell'Ottocento con l'intervento in Etiopia e in Eritrea, che non era considerato uno stato a sé comunque all'epoca. Poi all'inizio del Novecento in Libia, e poi durante il periodo fascista sempre dalla parte del Mar Rosso.